Purtroppo in cucina me la cavo malissimo, nel senso che so fare il caffè, poi so fare la pasta in bianco e poi basta. Io fino a Londra la mia unica priorità era il nuoto. Perché si parla di Mario che va a escort, Mario che ha le macchine belle, Mario che manda a cagare chiunque. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio, buona settimana a tutti. Franco Piantanida in redazione. Venerdì si sono conclusi i mondiali di pattinaggio artistico su ruote. L'Italia ha vinto più di tutti, ovviamente nessuno ne ha parlato, lo scrive Claudio da Padova. Noi facciamo un bel applauso, non ne parleremo, ma l'abbiamo citato. Siete tutti convocati, se volete, anche per parlare di questo, non lo so, 800 24 00 24 è il numero verde, messaggi 349 238 6666. Questi i nostri contatti. Naturalmente parleremo molto di motori, perché ieri è stata una giornata intensa e io noto un po' troppa depressione in casa Ferrari, perché insomma è vero, Vettel ha vinto la gara, è vero, c'è stato il sorpasso nella classifica mondiale piloti, però è altrettanto vero che Alonso è in piena corsa per il titolo, che meriterebbe più di chiunque altro, 215 punti contro 209, Raikkonen ne ha 167. In Giappone si è corsa invece una gara che ha insomma rinnovato il duello spagnolo. C'è Pedrosa che ha vinto questa manche, c'è Lorenzo sempre in testa alla classifica mondiale piloti, 310 punti per Lorenzo, 282 per Pedrosa. Io in questo caso vedo favorito Jorge Lorenzo. Ma ieri abbiamo visto, poi parleremo anche di questa storia piuttosto pelosa, devo dirvi la verità, del sospetto di Buffon che ha il dolorino in vista di Juventus-Napoli che si gioca sabato alle 18, e allora tutti a dire ma è un dolorino vero, non è un dolorino vero, si allena, non si allena. Luca di Montezemolo ha parlato stamattina dicendo cose sagge, tra cui una sacrosanta relativa alla Formula 1, cioè due galli in un pollaio, Vettel e Alonso non ci possono stare, e sono sempre stato d'accordo su questa teoria. E l'altra su Buffon, in bocca al lupo a Prandelli e alla Nazionale, cerchiamo di non mutare i sospetti e le polemiche che fanno parte della politica italiana, e cerchiamo nello sport di avere un po' più di passione e meno dietrologia. Incornicerai queste parole che però voleranno via come il vento. Ieri c'è stato anche, allora, prima parlavo con un giovane collega che è Roberto Scaltritti, e che mi diceva: ma per noi vedere questo Baumgartner che si è buttato dallo spazio verso la Terra è stato forse come per te vedere il primo passo dell'uomo sulla Luna. Lo ringrazio per il complimento, il primo passo dell'uomo sulla Luna non l'ho visto se non in differita per questioni di età, però è qualcosa che ha colpito tutti, quest'uomo che si è buttato dallo spazio. L'uomo sogna di volare, guardare dall'alto, planare sul mare. Sui gradini di una chiesa. There's the chute. There's the chute. L'uomo sogna di volare. And there you can see by the approaching shadow, he's just about there, and he's down on the earth safely back. Ma prega nel buio la sorte del down on his knees, what a shot. Non tocchi mai a me. We're in there fast. He has the world's record for the highest jump by far. Io avrei messo anche Man on the Moon dei Rem, canzone che mi piace moltissimo. Guido Meda, mio amico, buongiorno Guido. Buongiorno, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti voi. Parliamo di sto pazzo? Sì, in realtà eccepisco, nonostante sia stato terribilmente coinvolto ieri, sì. po' come telecronista, un po' come conduttore della lunga diretta che ha portato al salto. No, io che l'ho vissuto non come te in differita, ma in diretta, lo sbarco dell'uomo sulla Luna, avevo solo 3 anni, ma ho dei fotogrammi di quel giorno, non è la stessa cosa, insomma, è stata una bellissima impresa, quella di ieri, una grande impresa dell'uomo, ma non siamo a quei livelli, era il 1969, era grossa. Ieri certo c'è stata un'applicazione di scienza unita alla passione, all'emozione, al desiderio di avere dell'adrenalina, che è quella di cui Baumgartner vive, un'impresa direi pericolosa, emozionante e anche divertente per certi versi. L'uomo sulla Luna, secondo me, rimane un altro film. Una poesia dell'umanità. Bravissimo, Guido, una poesia dell'umanità. Senti, una poesia spagnola e anche questo finale di Moto Mondiale. Io faccio il tifo per Pedrosa, che tutti hanno sempre detto, ma non ha le palle per vincere un mondiale. Continuiamo a crederlo e intanto facciamo il tifo per lui e non per Lorenzo che guida il mondiale. Perché Lorenzo il mondiale l'ha già vinto, di sfortuni e di accidenti nella sua vita ne ha avuti parecchi di meno di Pedrosa. Dico, senza nulla togliere a Lorenzo, che è un po' inevitabile in questo momento tifare per il calimero della situazione, o di quello che è stato sempre il calimero della situazione. Non credo di aver conosciuto un altro pilota così perseguitato dalla mala sorte nella carriera. Parliamo di mala sorte relativa, no? Però insomma Pedrosa è sempre stato un pilota da mondiale che per un motivo o per un altro, quando arrivava al dunque, non c'è mai riuscito. Stavolta ci va abbastanza vicino, è dura perché comunque mancano 3 gare, ci sono 33 punti, Pedrosa deve proprio sperare, più che far bene lui, deve sperare in un vero colpo a vuoto di Lorenzo, che vuol dire o una caduta o una rottura di motore, se no direi che di possibilità francamente ne ha pochine. Come valuti il mondiale che si sta facendo Dovizioso? Io sono uno dei sostenitori di Dovizioso, cioè noi siamo alle prese con una stagione nella quale tutti sostengono che con le moto clienti è impossibile fare come con le moto ufficiali, vero? Però Dovizioso ha dimostrato che ci si può andare molto ma molto vicino. È poco mediatico, se vogliamo, incontra poco la simpatia del grande pubblico, pur essendo un bravissimo ragazzo e non essendo richiesto se non in minima parte di essere anche comunicativi quando si fa quel mestiere lì. È vero che poi è diventato una professione di grande impatto popolare, per cui aiuta essere capaci di trasmettere qualcosa alla gente a casa. Il Dovi da questo punto di vista è poco capace, però secondo me sta dimostrando che la sua razionalità, che probabilmente è anche un po' superiore al suo talento, in qualche modo paga, ecco. Per cui io sono molto contento, a me piace molto. Senti Guido, per chiudere, 21 ottobre Malesia, 28 ottobre Australia, Phillip Island, 11 novembre Valencia e poi è finalmente finita l'agonia rossa. Cosa devo aggiungere? Questo, io sono uno di quelli che aveva molto creduto al sogno rosso e al miracolo rosso, avevo affrontato con enfasi, forse eccessiva, giudicata oggi, il primo test di Valentino Rossi a Valencia 2 anni fa. Sono tra quelli adesso che dice mannaggia al fatto che non hanno divorziato prima, e temo un pochino che questa esperienza possa lasciare a Rossi intanto una cicatrice che non ce lo restituisca più vincente come prima. Questo è un timore recondito che ho io e che so che anche lui, o perlomeno lui ha la curiosità di mettersi alla prova e di verificarsi con la Yamaha per capire se è ancora capace di andare così forte. E spero che serva alla Ducati per capire che qualche volta nella vita bisogna anche rinunciare un pochino alle proprie idee. Loro hanno perseguito su un modello di moto, un tipo di impostazione che con un pilota molto in gamba, ma anche molto ortodosso come stile di guida, come Valentino, non ha funzionato. Per cui questo secondo me dovrebbe far pensare che se vogliono avere una moto vincente per il futuro, forse qualcosa dei loro principi devono cambiare. Ti lascio con questo tweet di Daniele, che è del 78, e scrive: mi sono perso la Luna, ieri penso di essermi rifatto un po', Italia 2 ha organizzato tutto benissimo. Ciao Guido. Sì, un po' si è rifatto, è vero, un po' sì. Un po' sì. Sono contento. Supera. Attento al muro. primi e secondi in qualifica qui, primi e secondi in gara qui, hanno vinto anche a Singapore, quindi definitivamente le ultime tre o quattro gare sono state molto dominanti per loro. Però quando fanno così basta solo fare i complimenti e noi fare il nostro lavoro. Il nostro lavoro oggi era fare un bel podio, dopo il ritiro di Suzuka non era facile, partiamo dallo sporco, avevamo qualche dubbio con le gomme, con dei problemi che potevano succedere in gara, e penso che essere terzi e quarti come squadra è un risultato importante. Beh, glielo spiego subito, caro ascoltatore che mi scrive: mi può spiegare perché Alonso merita più degli altri? Dovrebbero essere più umili in Ferrari, non dopo una gara vinta pensano già di aver vinto il mondiale. Umiltà, ragazzi, umiltà. Lo spiego subito: Alonso merita come mai questo titolo proprio per quello che è riuscito a fare nella prima parte della stagione, giocando in difesa e con una macchina che non andava nemmeno a spingerla. Però mi fido di chi ne sa infinitamente più di me, come Giancarlo Minardi. Ciao Giancarlo, grazie. Ciao, buon dì. Sei del mio parere o no? Ma io credo che Fernando in questo momento sta attraversando un periodo di form che non ha precedenti nella sua carriera, pur essendo due volte campione del mondo. E chiaramente si trova a combattere contro una Red Bull che è altrettanto valida e competitiva. Non è facile portargli via questo titolo mondiale, che peraltro sono due anni che la Red Bull è incontrastata dominatrice del mondiale di Formula 1. Io credo che sia una battaglia dura. Purtroppo ci sono stati due zeri che, a differenza di Vettel, che ne ha fatti tre, ma ne ha fatti per guai meccanici e non per incidenti causati da altri, Fernando paga pesantemente questi due veri che sono causati, come abbiamo detto, da incidenti e non da lui. E adesso è dura perché c'è una macchina e un pilota che sono fortissimi, e c'è la Ferrari che deve cercare, come peraltro diceva prima Fernando, di portare a casa il miglior risultato possibile, stare lì in scia e sperare anche che i guai che ha avuto Fernando magari li abbia anche il suo rivale Vettel. Sì, sei d'accordo? Io oggi leggevo Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera, il suo corsivo, lui scrive: ora è questione di cuore, non di aerodinamica. Cioè adesso il mondiale andrà a chi ne avrà più voglia, chi avrà più chiaramente fortuna, anche più condizione, non è più tempo di evoluzioni, di ambaradan ipertecnologici. In questo momento servono cuore, muscoli, voglia, rabbia, chi lo sa. Beh, allora se è questo l'additivo, credo che Fernando abbia già vinto, insomma, nel senso che la carica, la voglia di riportare la Ferrari al successo, che a lui non ce l'ha nemmeno il giovane Vettel, che raggiunge un obiettivo di tre titoli uno attaccato all'altro. Quindi da quel lato lì, e credo che non abbia rivali Fernando. Ho paura che però purtroppo ci voglia anche un po' di macchina, anche se è stato fatto tanto dall'inizio dell'anno, non sarà facile in questa fine campionato per due motivi: primo, perché le gare si susseguono e sono lontani dalla factory, e secondo perché quando arrivi a fine di una stagione non è facile trovare ancora delle evoluzioni su una macchina che hai già esplorato al 100%, quindi credo che non sia facile, ma sì, cuore e un po' di fortuna credo che potrebbero essere un grosso aiuto in più sia per la Ferrari che per Fernando. Ascolta, ma è più bravo Vettel o Newey? Tu chi compreresti nel tuo team? Io comprerei Newey. Sì, ma occhi chiusi e farei scrivere a lui le condizioni. È il genio di questa macchina. Io ti avevo chiamato per la verità. Ma non solo di questa macchina, è un genio che in questi ultimi 12, 13, 14 anni ha vinto dove è andato, il tempo di riorganizzare la squadra e ha vinto in Williams, ha vinto in McLaren, ha vinto in Red Bull, quindi non c'è niente da dire, e in questo momento non vedo onestamente tecnicamente un avversario. Un'ultima cosa, io avevo cercato settimana scorsa, poi non eravamo riusciti a trovarci telefonicamente per commentare l'addio finalmente del vecchio Schumacher. Ecco, io prima facevo il conto alla rovescia dei Gran Premi, che sono tre che mancano alla fine dell'agonia rossa di Valentino Rossi sulla Ducati, però faccio il conto alla rovescia anche per la fine della... Beh, agonia mi sembra una parola brutta, però di questo lungo tormento di Schumi, di questo ciclo. ma credo che sia giusto arrivare alla chiusura. Io, se fossi stato in lui, l'avrei fatto in maniera meno negativa, nel senso che purtroppo le nuove generazioni si ricorderanno solo lo Schumacher di questi ultimi 3 anni e non quello che lui ha fatto precedentemente, segnando dei record che difficilmente saranno battuti. Però credo che sia giusto, sai? Anche gli errori commessi quest'anno in più occasioni erano segnali abbastanza seri della fine di una carriera che peraltro è stato prestigioso. Quindi certo. Come tutte le cose, c'è un inizio e una fine, è giunto la fine, ecco. Grazie Giancarlo, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Giancarlo Minardi. È il vostro momento, 800 24 00 24, perché siete tutti convocati ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 3 per parlare di quello che volete, per parlare di sport naturalmente. Mi spiace deludere un ascoltatore che scrive: spero proprio oggi non si parli di calcio, parleremo invece anche di quello, provando a capire un po', insomma, sta storia, ripeto, piuttosto pelosa di Buffone, di questo lungo abbrivio di Juventus-Napoli che già comincia a starmi sulle scatole il lunedì, figuriamoci quando arriviamo alle soglie del venerdì. Marco, provincia di Ferrara, buongiorno. Buongiorno e bentornato. Grazie. Ascolti, niente, io volevo rispondere a quell'ascoltatore che le ha mandato quella mail dicendo perché Alonso. Perché Alonso merita perché più degli altri. Perché il motivo è molto semplice: Damon Hill, Jacques Villeneuve, Vettel hanno vinto con la macchina migliore e sono piloti, gran piloti. Mm. Alonso è il migliore perché vince anche quando ha la macchina che non va e concretizza tutto, è quello il fatto. Sì, un punto l'ha perso. Primo anno, sì, sono d'accordo. Quindi, no, ma poi quest'anno in particolare, guardi, io non confesso, non riesco a essere nemmeno un grandissimo tifoso della Ferrari. Mi piace moltissimo Alonso. Io ammiro soprattutto i piloti. Alonso è il più bravo di tutti e secondo me in questa stagione sta facendo il suo capolavoro, ma proprio perché è partito con la macchina inferiore, con una macchina che era enormemente distante, se lo ricordiamo, soprattutto dalla McLaren nelle prime corse, ed è riuscito, soffrendo, anche a vincere una gara in condizioni strane, ma soprattutto a portare a casa dei punti laddove la casella doveva rimanere vuota. Ed è stato questo che mi ha colpito molto nel mondiale di Alonso, ed è per questo che io torno a ripetere: nessuno lo merita come lui. Certo, perché se lo perde non lo perde per colpa sua, ma perché a Monza e a Dubai 30 punti gli sono mancati e lui li avrebbe portati a casa. Beh, insomma, coi se e coi ma non si fa la storia, questo non lo so. Non lo so dire, però io dico: Alonso merita il mondiale per la prima parte della sua stagione, poi per il resto se le corsa ad armi pari con un gran pilota con una macchina strepitosa come Vettel e la Red Bull rispettivamente. Raffaele Bologna, buongiorno. Buongiorno a te. Volevo solo fare una piccola considerazione, ma avete già detto tutto. Sia no, non è vero, c'è un sacco di cose da dire. No, solo una cosa. A parte invertite ieri, penso che tu abbia visto la corsa, come l'ho vista io, mi sembrava che Massa andasse molto più forte di Alonso a togliere tutto. Quando gli hanno detto fai il bravo e stai di dietro. Se avesse avuto forse ieri la macchina di Massa, forse avrebbe acchiappato Webber. Ma c'è da dire, Raffaele, lui nella messa a punto? Può essere che abbia sbagliato qualcosa anche lui nella messa a punto. C'è da dire che Massa in questo momento si sta giocando il rinnovo del contratto. Dicono che domani, anche quella è una cosa che domani firmerà. Quindi sta mettendo tutto quello che ha. Io non sono così convinto che facciano bene a confermare Felipe Massa per l'ennesima stagione. No, su questo sono d'accordo con te, come ha detto Montezemolo, che due galli si spennerebbero. No, i due galli sono Vettel e Alonso. Sì, appunto, dico bene, se andasse a prendere Vettel in Ferrari non so cosa succederebbe e cosa dovrebbero fare per tenerli buoni. Sì, certo. Tutto qua. Un'ultima considerazione su Valentino. Prego. E poi tolgo il disturbo. Volevo dirti, ma secondo te uno che rientra in Yamaha lo fa solo per vedere se può andare forte? Perché se no? No, io penso che vada lì anche per vincere, non lo so, la butto lì così. Tutti convocati. Mancano 5 giorni a Juventus-Napoli, presunto match scudetto. Si gioca a Torino alle 18 e io dicevo, comincio già ad essermi stufato. C'è un ascoltatore che scrive, ma anche l'espulsione di Vidal laggiù in Cile fa parte del complotto? Ma magari sì, però su questa partita mi sembra che ci sia già troppo veleno. Se mi baci ti do il mio veleno, una rosa scarlatta sul seno e dopo t'amerò. C'è Buffon che parla di affaticamento, che oggi non si è allenato a Coverciano. Ma per non so, no, ma una cosa proprio di identità, un affaticamento. No, oggi facciamo terapia. Oggi terapia? Sì, sì. Ma anche sei ottimista tu? No, mi preoccupate voi, sinceramente. È un affaticamento come sono stati milioni in ogni sport. Poi se si recupera in due giorni o in tre, quello poi dipende anche da come reagirà il muscolo. Il fatto è Juve-Napoli, sabato sera, ecco, tutto gira. Sono discorsi che non mi riguardano, nel senso che alla fine io devo pensare a martedì e possibilmente a sabato. Se sto bene gioco, se non sto bene non gioco. Ne ha parlato anche Prandelli di questo benedetto affaticamento. Si sente ancora fatica, allora a quel punto lì diventa una cosa un po' più impegnativa. Ecco, in questo momento non è come se uno ha raffreddore e dice ah, domani ti arriva la broncopolmonite. No, adesso c'è raffreddore, prendo un cedione e vediamo domani. Ecco. Allora, che interesse avremmo noi a camuffare o nascondere un problema reale? Dovremmo solo rimandare di due ore, non ha senso, sarebbe veramente sciocco da parte nostra. Ti direi, guarda, molto probabilmente non ce la fa appunto a rivederci. Invece non è così. Cogli di quest'attimo il piacere. Allora, Buffon, notizia di oggi, non si è allenato con il gruppo per colpa del ben noto affaticamento. Maggio si è allontanato dal ritiro perché la moglie Valeria ha dato alla luce Mattia. I migliori auguri a Maggio, a Mattia, ma soprattutto a Valeria. Si riaggregherà in compagnia a Milano. Partenza in treno per Milano alle 15.55. Sono un po' affaticato anch'io, caro Paolo Bargigia. Sei già affaticato? Sono già affaticato, pensa un po'. È solo lunedì. Il lunedì ad inizio settimana, ma sì. Se tu che sei il selezionatore, che convochi tutti, sei sì. Affaticato è un disastro. Io sono affaticato perché mi affaticano lor signori, mica peraltro. No, vabbè, ci fanno parlare, vedi, in Italia non ci facciamo mancare niente, no? No. Nel senso che pensa che noia sarebbe stata questa settimana senza la Serie A. Vabbè che è un po' un tormentone che adesso davvero rischia di stufare, però tra poco risolveremo, perché se anche stasera alle 19 a San Siro, allenamento a porte aperte della nazionale, Buffon continuerà a fare fisioterapie e cure e non lo vedremo allenarsi, secondo me è ben difficile che domani sia in porta. È vero, la nazionale domani mattina farà una piccola rifinitura, però io non credo che se Buffon non si allena stasera domani va in campo. Ti devo dire che secondo me per evitarsi tutto questo tormentone, questa dietrologia, che però secondo me un fondo di verità ce l'ha, ti dico che Buffon, che è un giocatore di grande personalità, avrebbe potuto o potrebbe uscire allo scoperto dicendo ho questo fastidio all'adduttore sinistro. Non voglio rischiare di saltare la partita a Napoli. Non me la sento, ho chiesto a Prandelli di non giocare. Ecco, così toglierebbe dall'impaccio sia Prandelli che la federazione, no? Sì. Che è costretto un po' ad arrampicarsi sugli specchi. Poi te li regalo i napoletani, no? Che devono mandare in porta De Santis. Allora arriva De Santis e dice: no, io ho raffreddore, in porta non ci vado. Sì, mandiamo no, Sirigu che tanto di Ancelotti. Certo, ma è chiaro che se Buffon non giocherà, come io credo, se non ci sarà un colpo di scena stasera, De Santis andrà in porta. È vero che il Napoli ha cominciato ad agitarsi, perché secondo me, anche se Prandelli giustamente professa, e lo è, indipendenza di pensiero e autonomia un po' per la giacca. Prima la Juve, poi il Napoli l'hanno tirato, nel senso che comunque partendo dagli allenamenti un po' differenziati per Pirlo, per i suoi muscoli, eccetera, un po' con gli juventini che davvero gli inviati che ci sono sulla nazionale raccontano che nei giorni di avvicinamento alla gara con l'Armenia si allenavano proprio blandamente, al fatto che Chiellini, che è un titolare con l'Armenia, non avesse giocato. Sì. Cioè, secondo me a Napoli, dentro un paese così complottista, dietrologico, eccetera, eccetera, secondo me... Due pensierini li hanno fatti, anche sulla gomitata di Vidal, sì, scriveva prima un ascoltatore. Ma no, secondo me no, dai, secondo me quello è troppo. È anche vero però che da giocatore a giocatore c'è chi è più o meno paraculo in questo e c'è anche chi è più o meno... disposto, avendo una soglia alto bassa del dolore, a rischiare qualcosa. Certo, allora, per dirti, Vani è uno che piuttosto che, e infatti non lo fa, saltare un minuto con la nazionale si farebbe sparare, no? Vedi che torna tardi dalla Bolivia, però quando il Napoli l'anno scorso ha tentato di tirarlo per la giacca De Laurenti dicendo ma potrebbe giocare poco, una partita su due, si è arrabbiato di brutto, sì, Cavani, sì, guai sì, a giocare in nazionale. Io ammiro molto quelli così, Sì, sì, anch'io, io, ma anche perché, hanno 25 ma anni. Sì, ma è chiaro, Paolo, dai, è chiaro, a 25 anni sono degli atleti. Raccontami un po' di cosa hai parlato oggi. So che hai parlato di Milan su Mediaset, raccontami un po'. Ma no, a Studio Sport ho cercato un po' di capire cosa c'è dietro alle dichiarazioni ultime che ha fatto Allegri alla TV della casa ieri, vale a dire Milan Channel, dove vabbè ovviamente ti raccomando quanto erano graffianti le domande. Le domande, certo. Però ha parlato della sua posizione, tra l'altro, e del suo rapporto con la società. E lui, vabbè, ha detto quello che tutti direbbero, cioè che Berlusconi, da quando è arrivato al Milan, lo sente spesso, che l'ha sentito anche negli ultimi giorni, che l'ha incoraggiato e che lui non si sente così in bilico. E tu ci credi? No, la verità, lavorandoci, è che la posizione di Berlusconi è quella di un padrone di un club o di un'impresa che ovviamente sceglie una strategia opportuna. Certo, non può chiamare l'allenatore per dirgli guarda, sei sotto esame e sappi che, no? Berlusconi cerca di salvare il salvabile. Gagliani sta cercando di puntellare Allegri facendo passare comunque la filosofia che c'è sconfitta e sconfitta, per esempio quella nel derby, sostengono i milanisti inviaturati di aver visto una certa reazione. Sì. Gagliani è andato a cena mercoledì scorso con Allegri. Una cosa in favore di Allegri è anche il fatto che la squadra si è schierata con lui anche pubblicamente, però si capisce anche che ci sono delle pressioni di Berlusconi su Gagliani per cercare di mettere Allegri in una situazione quasi di ultimatum, non pubblico ma operativo. Sì. E quindi io confermo che secondo me Lazio sabato e Malaga mercoledì 24 faranno la differenza. Se saranno sconfitte, soprattutto brutte, allora poi c'è la possibilità di vedere Mauro Tassotti sulla panchina. Poi il Milan ha un miniciclo abbastanza agevole con la Genoa in casa e poi a Palermo. Però sarà importante, ecco, cioè tutte queste dichiarazioni al miele sono da interpretare con lo spirito critico che dovrebbe contraddistinguere chi fa il nostro lavoro, no, Carlo? Un'ultima cosa che è di oggi, carezze di Carlo Ancelotti a Daniele De Rossi. D'altra parte Ancelotti dice: se c'è un club che può spendere al mondo siamo noi, De Rossi è un signor giocatore, lo prenderei a occhi chiusi e a gennaio vediamo che succede. Sì, è vero, il Paris Saint-Germain non ha mai nascosto i suoi obiettivi, no? Spendo finte nelle dichiarazioni, anche quest'estate l'avevamo fatto un po' con Ibra perché non trovavano un accordo e allora c'era una situazione un po' delicata. Bisogna vedere se alla Roma si ricompone sta facendo la situazione di Rossi e se Zeman torna a metterli in campo. Altrimenti è chiaro che a gennaio potremmo aspettarci qualcosa di interessante. Il Paris Saint-Germain insieme al Manchester City, che in verità è il club con Mancini che da tempo si muove su De Rossi, potrebbero tornare a interessarsi al giocatore, che non dimentichiamo non è stato ceduto al City gli ultimi giorni del mercato, un po' perché lui non è un gran convinto a lasciare Roma e un po' perché l'offerta non era così clamorosa. Sì. E adesso voglio voi, 800 24 00 24, numero verde, Giovanni, provincia di Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ma io sono sempre una parola di Fiorino, è un giocatore alla Materassi dell'Inter. Cioè, forse un po' che lo manda fuori. Sento niente. Ah, mi perdoni ma non riusciamo a sentirla, non so se per questione di auricolare, di viva voce, di linea disturbata o di traffico. Marco, provincia di Bari. Pronto? Pronto? Mi sente? Sì. Sì, buongiorno. Senti, a tutti volevo farvi i complimenti per la trasmissione. Sì, grazie. Mi fate compagnia durante il viaggio per il lavoro, sempre ogni giorno, fa bene, piacere. Bene, bene, bene. Dica. Niente, volevo fare una considerazione sull'Italia, cioè dal punto di vista della considerazione della partita con la Danimarca, cioè si stanno pensando a molte cose, di piccole cose, fra piccole società, e non si pensa molto alla partita, che comunque è molto importante dal punto di vista delle qualificazioni. È molto importante, cioè, però lei sa perfettamente come in questa stagione non sia quasi impossibile vedere la squadra migliore, ma proprio per tutte queste ragioni, per tutti questi motivi, perché siamo al via del campionato, ci sono le coppe, eccetera, eccetera. Quindi sono questi piccoli infortuni che comunque vengono trattati con grande attenzione, sono qualcosa di fisiologico. Non è stagione per la nazionale, sono partite che io la penso come Platini, sarebbe meglio condensare in un periodo diverso dell'anno, magari giocandone anche tre alla settimana se possibile, quando è chiaro i giocatori magari hanno meno energia ma certamente hanno la testa più libera. Prego. Quello sì, no, sicuramente. Ma dicevo solo questo, cioè l'Italia la si considera solo per le manifestazioni e poi magari durante il campionato non tanto viene considerata. Sì. Un'ultima cosa su Buffon, io non so, mi hai sentito poi. Su Buffon? Buffon, boh, non ho capito, Marco, mi perdoni. Stefano, Rimini. Salve, io volevo dire una cosa, a me sembra abbastanza stucchevole tutta questa polemica su Buffon e De Sanctis, innanzitutto perché leviamola abbastanza? Leviamola abbastanza? Pronto? Sì, pronto. Leviamola abbastanza, no. Stucchevole? Sì, mi sembra abbastanza stucchevole. Innanzitutto ecco. I diretti interessati allora mi hanno smorzato sul nascere. Sì. Oggi Buffon diceva sulla Gazzetta che loro sono qualche metro sopra le polemiche. In più parliamo di Buffon, insomma, che non ha, mi sembra che abbia sempre dimostrato un grosso attaccamento alla nazionale. È il terzo giocatore più presente della storia e credo sinceramente che sia una polemica creata ad arte, anche perché non sospettisco un po' quando sento espressioni del tipo prendendo tirato per la giacchetta piuttosto che malumori da Napoli, da Torino, cioè o si dice concretamente se qualcuno ha polemizzato oppure è intervenuto eccetera, però mi sembra un po' come nelle fasi di mercato. Stefano, ma lei ha ragione, è una polemica stucchevole, però ripeto, in questo periodo dell'anno in cui si condensano moltissime partite di club, in cui ci sono queste partite della nazionale che sono importanti sì per la qualificazione ai mondiali, ma non sono partite impossibili né irrimediabili. È chiaro che i giocatori pensino agli impegni, è fatale come i giocatori pensino agli impegni dei loro club. Allora, oggi il malcapitato di turno che si beccherà il domandone sulla Champions League viene da Napoli ed è Antonio. i numeri della Champions. Buongiorno Antonio. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao, prima provi a rispondermi alla domanda e poi dici quello che vuoi, ok? Okay. Allora, la vittoria finale di Coppa dei Campioni con il maggior numero di scarto di gol. 4. 4, sì. Dimmene almeno una. Sono 3 che sono finite con 4 gol di scarto. Una è facile. Beh, te la dico io. Milan Steaua 88-89, però c'è stato anche un Bayern Monaco 4-0 all'Atletico Madrid 73-74 e un 7-3 della Real Madrid sull'Eintracht Francoforte nel 59-60. Era difficilissimo. Era impossibile, no, apposta le faccio. Le faccio apposta che sono impossibili. Stai lì, stai lì. I numeri della Champions in collaborazione con Unicredit. Dimmi tutto Antonio. Antonio, eccoci. De Santis, secondo sì. me è molto felice di giocare domani sera, anche perché ha una bellissima opportunità al certo. posto di Buffon. Ma poi certo, ma certo. Speriamo che se la meriti, soprattutto che non faccia guai sulle uscite alte, lui pecca un po' da questo punto di vista, però secondo sì. me farà una buona partita. Sì, e sì. sono convinto che è contento pure di giocare. E sono contento che pure i napoletani intelligenti siano convinti che De Santis domani difenda la porta della nazionale a San Siro contro la Danimarca se ciò accadrà. Grazie Antonio, a presto, alla prossima. Ciao. Io volevo chiudere con il basket. C'è stata ieri Ferdinando Minucci, presidente di Siena, i nostri microfoni, c'è questa polemica che anche in questo caso non vedo l'ora finisca alla svelta con Milano. Sentiamo cosa ha detto Minucci. Io non mi aspetto nulla perché noi non siamo, tra virgolette, se non stati sentiti come persone informate dei fatti, il resto è lo stile dei dirigenti che viene fuori e quindi noi abbiamo, come dire, siamo partecipi di questa vicenda, non abbiamo nulla da nascondere, ripeto, l'intercettazione è stata pubblicata sulla Gazzetta dello Sport in maniera integrale, non c'è. Questo e basta, il resto poi sarà un discorso da fare in seguito. È una questione di stile. È una questione di stile che sarebbe meglio recuperare tutti insieme dimenticando questa polemica pelosa, ma ieri c'è stata anche un'altra grande impresa sul campo, di nuovo, di Drake Diner. Sentiamo. Palla sulla rimessa o cose del sì, genere. Sì, ma cercheranno un lob sicuramente, anche per... Drake... E va a realizzare! E sì! Ancora il filo di fondo, un lock! Questo è un tiro incredibile, stavo guardando gli abiti! Volta. Stavo guardando gli abiti, se la stavano dando buono! Non ha detto Drake, probabilmente gli ho solo detto che la prossima volta di sicuro lui non lo faranno tirare. Ha fatto il suo dovere, lo paghiamo per questo. Vediamo questo secondo. Palla per Drake, da fuori! E realizza! E sì! E l'ha rifatto, l'ha fatto due volte, tutte e due contro Cantù, tutte e due allo stesso modo, tutte e due in modo impossibile, Drake Diner. Franco Piantanida in redazione, grazie per il lavoro che hai fatto, ci sentiamo domani dalle 2 alle 3 con tutti i convocati.